Oh, ne approfitto dell'occasione per ringraziare tutti gli amici che sono qua, più specialmente quelli vecchi. Se vedete qua, facciamo una bella canzone. Qual è? Tutti che si vogliono bene. C'è una luce che riscalda la mia mente, non ho delle dita, si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sta male, che ci porta sulle strade della gente che sta male. Un migrante contrabbasso che mi spara sulla faccia, mi spara sulla faccia, ciò che penso della vita, con il suono delle dita si combatte una battaglia. Sulle strade della gente che sta male, negli occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita mi combatte una battaglia, si porta sulle strade della gente che sta male, si porta sulle strade della gente che sta male.